Capitolo 32. La signorina Cornelia si pronuncia. Così vuoi dirmi, Anna cara, che Dick Moore non è affatto Dick Moore ma qualcun altro? Mi hai detto questo al telefono oggi? Sì, signorina Cornelia, è stupefacente, non è vero? Questi uomini, si limitò ad affermare la signorina Cornelia. Si tolse il cappello con dita tremanti. Per la prima volta in vita sua, la signorina Cornelia appariva innegabilmente sconcertata. Non riesco ancora a rendermene conto, Anna, disse. Te l'ho sentito dire e ti credo, ma non riesco a mettermi in testa l'idea. Dick Moore è davvero morto. È morto da tanti anni e Leslie è libera? Sì, la verità l'ha resa libera. Gilbert aveva ragione a definirlo il sommo versetto della Bibbia. Dimmi tutto, Anna cara. Da quando ho ricevuto la tua telefonata sono in uno stato di totale confusione. Credimi, Cornelia Bryant non è mai stata tanto sbalordita in vita sua. Oh, non c'è molto da dire. La lettera di Leslie era breve, non è entrata in dettagli. L'uomo che credevamo Dick, e che invece è George Moore, ha riacquistato la memoria e ricorda la propria identità. Dice che Dick si ammalò di febbre gialla a Cuba e la quattro sorelle salpò senza di lui. George restò a terra per assisterlo, ma Dick morì poco dopo. George non scrisse a Leslie perché intendeva tornare subito a casa. E perché non l'ha fatto? E allora che deve essergli capitato l'incidente? Secondo quel che dice Gilbert, è facile che George Moore non ricordi nulla dell'incidente o delle sue cause, né ora né in futuro. Deve essere successo poco dopo la morte di Dick Moore. Avremo forse altri particolari quando Leslie scriverà ancora. Dice che cosa farà quando tornerà a casa? Dice che resterà con George Moore finché non uscirà dall'ospedale. Ha scritto ai parenti della Nuova Scozia, a quanto pare l'unica parente stretta di George è una sorella sposata, parecchio maggiore di lui. Era viva quando George si imbarcò sulla Quattro Sorelle, ma non sappiamo che ne sia stato poi di lei. Lei ha mai conosciuto George Moore, signorina Cornelia? Sì. Ora mi torna tutto in mente. 18 anni fa, quando lui e Dick avevano circa 17 anni, venne a trovare lo zio Ebner. Erano cugini, sia da parte di madre che da parte di padre. I padri erano fratelli e le madri sorelle gemelle, perciò si assomigliavano moltissimo. Certo, aggiunse la signorina Cornelia in tono di disprezzo, non era una di quelle somiglianze straordinarie che si trovano nei libri, dove personaggi uguali come gocce d'acqua si sostituiscono a vicenda senza che nessuno se ne accorga. A quei tempi si poteva riconoscere facilmente George da Dick se li si vedeva insieme e da vicino. Se erano separati e lontani, non era invece tanto facile. Facevano un mucchio di scherzi alla gente, ci si divertivano un mondo quei due bricconi. George Moore era un po' più alto e parecchio più grosso di Dick, anche se nessuno dei due si poteva dire grasso, anzi, erano di costituzione magra. Dick aveva il colorito più acceso di George e i capelli leggermente più chiari, ma i lineamenti erano identici e tutti e due avevano quella stranezza degli occhi che erano un azzurro e l'altro castano. Nel resto però non si assomigliavano per niente. George era un bravo ragazzo, anche se gli piaceva fare il buon tempone e si diceva che avesse un debole per la bottiglia, ma tutti lo preferivano a Dick. Passò qui circa un mese. Leslie non lo vide mai, aveva 8 o 9 anni a quel tempo e ricordo che passò l'inverno con la nonna West dall'altra parte della baia. Non c'era nemmeno il capitano Jim, era l'inverno del naufragio sull'isola Maddalena. Non credo che né lui né Leslie abbiano mai sentito parlare della somiglianza di Dick con il cugino della Nuova Scozia. E quando il capitano Jim portò a casa Dick, o per meglio dire George, nessuno ci pensò. Certo, tutti pensammo che Dick era notevolmente cambiato, si era molto appesantito, ma attribuimmo il fatto a quel che gli era successo ed era senz'altro così perché, come ho detto, nemmeno George era mai stato grasso. D'altra parte, non potevamo immaginare altro, perché il poveretto aveva perso il lume della ragione. Non c'è da stupirsi che ci siamo cascati tutti, però è sbalorditivo. E Leslie ha sacrificato gli anni migliori della sua vita per assistere un uomo che per lei non è niente? Oh, accidenti agli uomini! Qualsiasi cosa facciano sbagliano e non sono nemmeno chi dovrebbero essere, riescono proprio a esasperarmi. Gilbert e il capitano Jim sono uomini ed è grazie a loro che si è scoperta la verità, disse Anna. Beh, lo ammetto, concesse a malincuore la signorina Cornelia. Mi dispiace di aver strapazzato così il dottore. È la prima volta in vita mia che mi vergogno di aver criticato un uomo, ma non credo che a lui lo dirò, dovrà prenderlo per scontato. Beh, Anna cara, è un bene che il Signore non esaudisca tutte le nostre preghiere. Già da un po' io pregavo perché l'operazione non facesse guarire Dick. Naturalmente non lo dicevo così nudo e crudo, ma il nocciolo era quello e senza dubbio il Signore lo sapeva. Beh, ha esaudito lo spirito della sua preghiera. Quel che lei voleva in realtà era che Leslie non dovesse soffrire ancora di più. Ad essere sincera, anch'io speravo segretamente che l'operazione non riuscisse e ne faccio pubblica ammenda. Come ti sembra che l'abbia presa Leslie? Appare intontita, credo che come noi non se ne renda ancora bene conto. Scrive: mi sembra tutto uno strano sogno, Anna. È l'unico accenno che fa a se stessa. Povera ragazza, quando un prigioniero viene liberato dalle catene, per un po' ne avverte quasi la mancanza e si sente a disagio. Anna cara, c'è un'idea che continua a tornarmi in mente. E Owen Ford? Sappiamo tutte e due quel che Leslie provava per lui. Hai mai pensato che lui provasse qualcosa per lei? Sì, una volta, ammise Anna, temendo di dire troppo. Beh, non avevo motivo di crederlo, ma ne ero sicura, Anna cara, sai Dio che non ci tengo proprio a combinare matrimoni, ma se fossi in te, scriverei a quel Ford e gli riferirei così, con aria di niente, quello che è successo. Ecco cosa farei io al tuo posto. Certo che glielo riferirò, quando gli scriverò, disse Anna con un certo distacco. Era un argomento di cui chissà perché non riusciva a parlare con la signorina Cornelia. Eppure doveva ammettere che lo stesso pensiero la ossessionava. Da quando aveva saputo che Leslie era libera, non intendeva svilirlo parlandone troppo. Naturalmente non c'è fretta, mia cara, ma Dick Moore è morto da 13 anni e Leslie ha già buttato via per lui una parte preziosa della sua vita. Vedremo cosa succederà. Quanto a George Moore, morto o resuscitato, quando tutti lo credevano nel mondo dei più. Mi fa molta pena. Resterà sempre un pesce fuor d'acqua, poveretto. È ancora giovane e se si riprenderà completamente, come sembra probabile, riuscirà a rifarsi una vita. Deve sembrargli tutto molto strano, poveraccio. Ho idea che tutti gli anni passati dopo l'incidente non esistano per lui. Capitolo 33. Leslie torna a casa. 15 giorni dopo, Leslie Moore tornò sola alla vecchia casa in cui aveva trascorso tanti anni infelici. Era il crepuscolo di una giornata di giugno quando attraversò i campi e andò da Anna, comparendo all'improvviso come un fantasma nel giardino profumato. Leslie! Esclamò Anna sbalordita. Da dove sei spuntata? Non sapevamo che dovevi arrivare. Perché non hai scritto? Saremmo venuti a prenderti. No, non riuscivo a scrivere, Anna. Mi sembrava inutile sforzarmi di dire qualcosa con penna e inchiostro e volevo tornare all'insaputa di tutti. Anna abbracciò Leslie e la baciò. Leslie la ricambiò con affetto. Appariva pallida e stanca e si lasciò cadere con un sospiro sull'erba accanto a un'aiuola di giunchiglie che brillavano come stelle dorate alla tenue luce argentea del crepuscolo. E sei venuta a casa da sola, Leslie? Sì. La sorella di George Moore è venuta a Montreal e si è portata a casa il fratello. Poverino, gli è dispiaciuto lasciarmi, anche se ero un'estranea per lui quando ha riacquistato la memoria. Si è aggrappato a me in quei primi giorni terribili in cui stentava a rendersi conto che la morte di Dick non risaliva a qualche giorno prima, come credeva lui. Sono stati brutti momenti per lui. L'ho aiutato come ho potuto. All'arrivo della sorella le cose sono migliorate. Perché gli sembrava di averla salutata solo qualche giorno prima. Per fortuna non era cambiata molto e questo è stato di grande aiuto. È tutto così strano e meraviglioso, Leslie. Nessuno di noi riesce ancora a rendersene bene conto. Oh, nemmeno io. Quando sono rientrata in casa un'ora fa, ho avuto l'impressione di aver sognato e che ad attendermi dovesse esserci ancora Dick con il suo sorriso da bambino. Anna, sono ancora intontita. Non sono. Né contenta né dispiaciuta, non provo nulla. Mi sembra che a un tratto nella mia vita si sia creato un vuoto terribile. Mi sembra di non essere più me stessa, di essere diventata un'altra a cui non riesco ad abituarmi. Mi dà un'orribile sensazione di solitudine, di sbigottimento e di impotenza. Mi fa piacere rivederti. Sei come un'ancora per la mia anima alla deriva. Oh, Anna, ho paura di tutto, delle chiacchiere, delle domande, delle esclamazioni di meraviglia. Se ci penso, non vorrei essere tornata a casa. Il dottor Dave era alla stazione quando sono scesa dal treno e mi ha accompagnata a casa. Povero vecchio, si sente in colpa per avermi detto anni fa che per Dick non c'era niente da fare. Ne ero convinto, Leslie, mi ha detto oggi. Ma avrei dovuto dirti di non basarti sulla mia opinione. Avrei dovuto dirti di andare da uno specialista. Se l'avessi fatto, ti saresti risparmiata anni duri e George Moore non avrebbe buttato al vento tanto tempo. Non riesco a darmi pace, Leslie. Gli ho detto che non era il caso perché aveva agito come riteneva giusto. È sempre stato molto buono con me. Non sopportavo di vederlo tanto avvilito. E Dick? George, voglio dire, ha riacquistato completamente la memoria? Praticamente sì. Naturalmente ci sono molti particolari che non ricorda ancora, ma migliora ogni giorno. La sera seguente al funerale di Dick andò a fare una passeggiata. Aveva con sé l'orologio e il denaro di Dick. Intendeva riportarmeli, insieme alla lettera. Ammette di essere andato in un locale frequentato da marinai, poi ricorda di aver bevuto e nient'altro. Anna. Non dimenticherò mai quando l'ha ricordato chi era. Ho visto che mi guardava con espressione intelligente ma stupita. Gli dissi: Mi riconosci, Dick? Rispose: Chi è lei? Non l'ho mai vista prima d'ora. Io non mi chiamo Dick. Mi chiamo George Moore e Dick è morto ieri di febbre gialla. Dove sono? Che cosa mi è successo? Anna, sono svenuta. E da allora mi pare di vivere in un sogno. Oh, ti abituerai presto alla nuova situazione, Leslie, cara, e sei giovane, hai tutta la vita davanti a te, potrai vivere ancora molti anni belli. Forse, tra qualche tempo riuscirò anch'io a vedere le cose sotto questo aspetto, ma ora mi sento troppo stanca e indifferente per pensare al futuro. Anna, sono sola. Mi manca Dick, non è strano, sai, ero affezionata al povero Dick, forse dovrei dire George, come si può essere affezionati a un bambino inerme che dipende da te in tutto e per tutto? Prima non l'avrei mai ammesso perché me ne vergognavo, sai, avevo tanto odiato e disprezzato Dick prima che andasse via. Quando seppi che il capitano Jim lo stava riportando a casa, mi aspettai di provare di nuovo gli stessi sentimenti per lui, ma non fu così, anche se continuai a detestare il ricordo del Dick di prima. Dal momento del suo ritorno a casa provai solo compassione, una compassione che straziava l'animo. Allora pensavo che fosse perché l'incidente l'aveva reso inerme e tanto diverso, ma ripensandoci, forse il motivo era l'esistenza di un'altra personalità dietro la maschera dell'idiota. Charlie lo sapeva, Anna. Ora capisco che Charlie lo sapeva. Mi è sempre parso strano che Charlie non riconoscesse Dick. I cani sono animali fedeli e lui solo sapeva che non era il suo padrone quello che era tornato. Io non avevo mai visto George Moore. Ora ricordo che Dick una volta mi parlò casualmente di un cugino della Nuova Scozia che gli assomigliava come un fratello gemello. Ma me ne ero dimenticata e in ogni caso non avrei dato importanza alla cosa. Vedi, non mi era mai venuto in mente di mettere in dubbio l'identità di Dick. I cambiamenti avvenuti in lui mi sembravano da attribuire all'incidente e, oh Anna, se penso a quella sera d'aprile in cui Gilbert mi disse che Dick forse poteva guarire, non la dimenticherò mai. Mi sentivo come la prigioniera in una gabbia di tortura che trova la porta aperta e può infine uscire. Una catena mi legava ancora alla gabbia, però ne ero già fuori e quella sera sentii che una mano inflessibile mi sospingeva nuovamente all'interno della gabbia, destinandomi a una tortura ancora più atroce della precedente. Non avevo niente da rimproverare a Gilbert, sapevo che aveva ragione ed era stato molto buono. Aveva detto che, visto il costo e l'incognita dell'operazione, non mi avrebbe biasimato se avessi deciso di non rischiare. Ma io sapevo quale decisione andava presa e ne ero terrorizzata. Per tutta la notte andai su e giù per la stanza come una pazza, cercando di costringere me stessa ad affrontare quel passo, ma non ci riuscivo. Anna, ero convinta di non riuscirci. E allo spuntare dell'alba strinsi i denti e risolsi di non farlo. Avrei lasciato stare le cose come stavano. Era una malvagità, lo sapevo. La mia malvagità sarebbe stata punita a dovere se mi fossi attenuta a quella decisione. La mantenni per tutto il giorno. Quel pomeriggio andai a Glen a fare delle spese. Dick era in una delle sue giornate tranquille e sonnecchiava, perciò lo lasciai solo. Restai via più del solito e sentii la mia mancanza. Soffrii di solitudine. Quando tornai a casa mi corsi incontro come un bambino, con una contentezza sul volto. Anna, fu allora che cedetti. Quel sorriso su quel povero volto inespressivo mi costrinse alla resa. Mi parve di voler negare a un bambino la possibilità di crescere e svilupparsi. Allora seppi che dovevo concedergli quella possibilità, costasse quel che costasse. Così veni qui e lo dissi a Gilbert. Oh, Anna, devi avermi giudicata odiosa nelle settimane precedenti la partenza. Non volevo esserlo, ma non riuscivo a pensare ad altro che a quello che dovevo fare. E vedevo il mondo attraverso un velo. Lo so, l'avevo capito, Leslie. E ora è tutto finito. La catena è spezzata e la gabbia è scomparsa. La gabbia è scomparsa, ripeté Leslie meccanicamente, sfiorando l'erba corta con le magre mani brune. Ma mi sembra che non mi sia rimasto nulla, Anna. Ricordi quando ti parlai della mia pazzia, quella sera sulla barra? Sto scoprendo che non mi è facile guarire dalla pazzia. A volte penso che c'è chi resta pazzo per sempre. Ed essere pazzi a quel modo è orribile, quasi come essere un cane alla catena. Oh, vedrai, ti sembrerà tutto diverso quando non sarai più stanca e frastornata, disse Anna, che conoscendo il segreto di un certo giornalista non era propensa a commiserarla eccessivamente. Leslie appoggiò il capo dagli splendidi capelli biondo oro sulle ginocchia di Anna. Comunque o te, disse, la vita non può essere completamente vuota con un'amica così. Anna, accarezzami la testa come se fossi una bambina, fammi le coccole e lascia che ti dica per una volta che sono in vena di confidenza quanto avete contato per me tu e la tua amicizia da quella prima sera sulla spiaggia.